Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt. Io sono Maurizio Melis e stasera ci occuperemo delle detrazioni fiscali del 55% per l'efficienza energetica negli edifici. Qualche settimana fa abbiamo visto come gli italiani hanno deciso di usufruirne nel 2009. Intanto è emerso che sono piaciute molto e sono andate molto bene e hanno anche svolto una funzione, diciamo, di ammortizzatore rispetto a un settore, quello dell'edilizia, che ha risentito pesantemente della crisi. Oggi non è però chiaro se verranno riproposte nel 2011 e con quali eventuali modifiche. Restano però ancora 6 mesi per avvalersi di questa opportunità. Cerchiamo allora di capire quali sono le condizioni per poterlo fare insieme a Marco Vignola, esperto del settore energetico e ambientale di Adiconsum, la quale gestisce tra l'altro proprio il numero verde dedicato al 55% e alle sue problematiche. Buonasera Vignola. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo direi cercando di spiegare a chi è rivolto il 55% e a che cosa si applica, a quali interventi. Allora, i beneficiari sono praticamente tutti i contribuenti, cioè è una detrazione rivolta alle persone fisiche, ai professionisti, alle società o alle imprese che sostengono delle spese per eseguire degli interventi su edifici esistenti o parti di esse che sono volti, diciamo, al miglioramento dell'efficienza energetica. Nel caso delle imprese la detrazione non è dall'IRPEF ma è dall'IRES, è equivalente. D'accordo. Ecco, quali sono nello specifico gli interventi? Ci sono 3 o 4 categorie, se non sbaglio. Gli interventi che possono essere portati in detrazione sono diversi. Si va dai più semplici, cioè la sostituzione di serramenti infissi, a quelli che riguardano gli impianti di riscaldamento, quindi sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione, con pompe di calore, con caldaie a biomassa, oppure l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, o infine la coibentazione delle pareti e delle coperture e in generale la riqualificazione globale dell'edificio. Qual è la procedura per avere diritto a questo 55%? Non è la stessa o quantomeno un po' più complicata in alcuni casi, se ho capito bene? Per ottenere la detrazione bisogna inviare della documentazione attraverso il portale messo a disposizione dall'Enea, che gestisce un po' tutta la partita. Per alcuni interventi più semplici, per cui le caratteristiche dell'intervento possono essere dimostrate dal costruttore, come ad esempio gli infissi, le caldaie a condensazione sotto i 100 kW e i pannelli solari termici, basta compilare una scheda semplificata. Per tutti gli altri interventi, invece, serve una scheda più articolata in cui sono riportate delle indicazioni tecniche, per cui serve, diciamo, l'opera di un tecnico abilitato. Naturalmente anche la spesa per il tecnico può essere portata in detrazione. Quindi diciamo che nei casi in cui non ci sono automatismi bisogna chiamare questo tecnico, farsi fare una sorta di perizia nella quale si attesta che cosa? Allora, si attesta praticamente qual è stato l'intervento che si è fatto, che questo intervento rispetti le caratteristiche richieste dal decreto. Per esempio, nel caso della coibentazione delle pareti ci sono delle tabelle che riportano i limiti di trasmittanza, cioè della capacità del muro di condurre il calore. Condurre il calore. Se questa trasmittanza è sotto i livelli richiesti dal decreto, per quell'intervento è possibile portare in detrazione la spesa. D'accordo, quindi ci vuole questo aspetto di relazione tecnica oppure di scheda semplificata tecnica e poi bisogna allegare che cosa le fatture. Ecco, nella documentazione da inviare all'Enea non si allega praticamente nulla, nel senso è una procedura online, nel senso ci si iscrive a questo portale, si compilano i form che sono presenti sul portale in cui si riportano tutte le caratteristiche dell'intervento effettuato, la spesa e i valori di indici di prestazione energetica e di risparmio energetico ottenuti, e si invia telematicamente all'Enea questa richiesta. L'Enea invierà una ricevuta tramite posta elettronica. Questa ricevuta dovrà essere conservata dall'utente e presentata all'atto della dichiarazione dei redditi. D'accordo. verranno poi anche presentati bonifici bancari, d'accordo, e fatture che attestano la spesa. Tra l'altro qui è obbligatorio utilizzare il bonifico e questo è una fonte di emersione, esatto, del lavoro nero, ed esatto, è un altro motivo per cui forse vale la pena di mantenere attivi questi incentivi o qualcosa di simile. Perché faccio questo ragionamento? Perché non sappiamo se al 31 dicembre non finirà tutto. Intanto diciamo una cosa, abbiamo 90 giorni dopo il 31 dicembre a patto di aver finito i lavori entro il 31 dicembre per fare questa richiesta. Quindi se i lavori finiscono il 31 dicembre... entro il 31 marzo dell'anno prossimo. Naturalmente la speranza nostra, ma in generale dei produttori, delle associazioni di consumatori ambientaliste, delle associazioni di categoria, è che questa norma venga prorogata, perché è stato un forte volano per lo sviluppo di una imprenditoria, diciamo, nazionale, e ripeto, grazie a emersione del nero è un intervento che quasi forse si autoripaga, forse si autoripaga del tutto. Esatto. Ecco, avete qualche suggerimento da dare, però ecco, può essere modificato? Allora, quello che noi diciamo è che purtroppo gli interventi fatti sono stati interventi molto semplici, non si sono toccati molto i condomini. Per questo quello che si potrebbe chiedere è innanzitutto un fondo di garanzia che serva per spingere i grossi condomini a fare gli interventi, fissare dei tetti di spesa, perché molto spesso si è visto che le tecnologie incentivate dopo poco tempo aumentano di molto il loro prezzo, introdurre anche la contabilizzazione del calore, cioè quell'intervento che serve per dividere i consumi di calore per le singole unità immobiliari, utenze in caso di un sistema di riscaldamento centralizzato. D'accordo. E inoltre incentivare quelle che sono le nuove tecnologie in maniera più decisa. Grazie Vignola. Grazie a voi. Bene, questo è tutto. Domani parliamo delle certificazioni ambientali volontarie come Casa Clima e LEED, che sta arrivando dagli Stati Uniti. Buona serata.